Buonasera, prendo la parola per prima, ma mi presento. Non sono un'agricoltrice, non sono neanche una cittadina di Bettegrasso, bensì una milanese. Però non faccio speculazione, almeno non nel senso in cui ne abbiamo parlato prima. In realtà un po' di speculazione la faccio perché osservo e ascolto, nel senso che faccio interviste e nell'ultimo anno ho lavorato proprio in questa zona ascoltando gli agricoltori. E quindi questa sera sono venuta per ascoltare, per continuare un po' il lavoro che sto facendo. E come diceva proprio adesso Dario, peraltro io ho avuto la fortuna che la mia prima intervista sono stati proprio Dario e Renata, e per cui mi hanno davvero aperto un mondo ed è stato veramente un incontro importantissimo per il lavoro poi che abbiamo fatto. La cosa mi ha colpito molto quello che Dario diceva alla fine di questa crescita di relazioni e di occasioni e di incontri e di azioni anche molto, sempre più fitte nell'ultimo periodo e in particolare proprio anche, e lo stesso sta succedendo a Milano. A me è successo proprio solo qualche giorno fa di partecipare ad un incontro in un consiglio di zona 7, quindi peraltro è la zona aperta verso di voi, perché è la zona di Baggio, di Bisceglie, di Via Cusago, quindi esattamente della direzione che viene verso di voi. Ed è stato un incontro davvero molto interessante, sollecitato dal consiglio di zona, a cui hanno partecipato, in realtà animato e partecipato dagli agricoltori e dalle cascine che sono presenti in quella zona di Milano, perché in realtà, come si sottolineava proprio, in realtà esiste anche un'agricoltura cittadina, cioè non c'è solo quella periurbana, quindi appena qua fuori, ma c'è anche un'agricoltura, una città rurale, una presenza. E di quell'incontro vi vorrei portare solo un paio di suggestioni che magari possono essere utili per le cose su cui state lavorando. Ad esempio, anche nel comune di Milano è successo che già da qualche anno, in realtà, anche se poi la cosa è stata formalizzata solo con la nuova amministrazione, ci si è accorti che mancava un assessorato all'agricoltura. Continua a mancare perché non c'è un assessorato all'agricoltura, però è nata una direzione all'agricoltura, dell'agricoltura, e con un approccio anche forse un po' diverso, un po' nuovo, o forse anche solo in continuità rispetto a quello che state dando voi, nel senso che ci si è accorti che agricoltura non è solo urbanistica, quindi voi diciate assessorato all'agricoltura e all'urbanistica, ma in realtà l'agricoltura è un'attività produttiva e quindi si pone sempre più attenzione a questo aspetto. Quindi proprio seconda cosa che emergeva sabato è che questa necessità di filiera corta, comunque di apertura, ad esempio anche lì si è parlato di grande ristorazione, quindi delle società che fanno ristorazione non solo per le mense scolastico-aziendali, ma ad esempio le mense ospedaliere. E sappiamo bene che tra l'altro alcuni ospedali milanesi sono tra i maggiori proprietari di terre, molti di voi affittano terre proprio dall'ospedale maggiore. E quindi, peraltro spesso con problemi anche di contratti agrari sempre più brevi, perché sempre più si cerca magari di convertire quel suolo ad altro uso. E quindi credo che questi siano, insomma, elementi interessanti su cui ragionare e su cui proseguire un po' il lavoro che state facendo. E un'altra cosa interessante sta facendo il Comune di Milano è la costituzione di un distretto agricolo culturale. Cioè iniziare anche a pensare all'agricoltura proprio come un bene culturale. A me ovviamente questa cosa appassiona perché è un po' il mio lavoro, cioè io mi occupo di beni culturali e ho iniziato ad interessarmi e a studiare il lavoro agricolo. E credo che anche questo possa essere un altro, e credo che davvero sia anche sempre più utile e necessario un contatto diretto e un lavoro diretto tra amministrazioni, quindi magari anche prendendo direttamente contatto con l'amministrazione milanese e provando anche a capire se queste nuove realtà che si stanno costituendo possono poi avere un lavoro, insomma, un'azione diretta anche con voi. Io ne approfitto in realtà anche per ringraziare le molte persone che ho intervistato e che ho ritrovato qua questa sera. E anche per dire che, tra l'altro, il tipo di lavoro che abbiamo fatto noi, che noi siamo un'associazione culturale che si chiama Voce, abbiamo fatto un progetto insieme a Cascina Cuccagna, che forse è una realtà che conoscete. Questi materiali sono dei materiali che condividiamo, quindi che sono a totale, in questo momento iniziamo a pubblicarle sul sito sia di Avoce che di Cascina Cuccagna. Sono dei videomontaggi, delle video interviste però è in realtà anche un tipo di lavoro, appunto, che tendiamo a condividere, anche perché siamo convinti che, insomma, che i beni culturali siano dei beni pubblici, siano un bene comune, e quindi sono a disposizione anche le interviste che abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo fatto per voi, per chiunque voglia utilizzarle.